I. Ascolta e indica se l'espressione serve a esprimere un desiderio, una richiesta gentile, un'opinione personale, un'ipotesi o un dubbio. Se vuoi, trascrivi le frasi. 1. Mi faresti un piacere? 2. Il ladro sarebbe entrato dalla finestra. 3. Andrei volentieri in vacanza. 4. Io non inviterei nessuno. 5. La signora li avrebbe rimproverati per il troppo rumore. 6. I turisti dovrebbero fermarsi più di 2 ore in città. 7. Potreste fare silenzio? 8. Mia sorella dovrebbe proprio conoscerlo. 9. Sarebbe bello avere una piscina. 10. Potrei chiederle un'informazione?